Sono le 13. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Battaglia annunciata in Europa, l'Italia va avanti e sul clima chiede un patto di revisione alleata con i paesi dell'est. Saviano e gli altri simboli, lo capisco, me ne andrei anch'io, ma devo dare ottimismo. Un imprenditore minacciato dall''ndrangheta racconta la sua storia nel giorno della legalità per le imprese a Catanzaro. Bombe carta a Parma contro la caserma dove un ragazzo ghanese raccontò: mi hanno picchiato. Lo sbarco dei fondi sovrani arriva da Abu Dhabi, il partner di Finmeccanica. Frattini, tutti benvenuti, se restano sotto il 5%. Non si abbandoni il malato inguaribile, il Papa torna a parlare a medici e scienziati. Stranieri a scuola, in Germania siamo noi italiani, nelle classi separate. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. Un confronto che si preannuncia decisamente serrato. Dopo i capi di Stato, oggi sono infatti riuniti i ministri dell'ambiente europei per discutere il pacchetto per ridurre il rischio del cambiamento climatico. L'Italia, come sapete, propone di adottare un pacchetto europeo, ma a dicembre, con una clausola di revisione, e il ministro Prestigiacomo non esita ad annunciare battaglia. Tra poco andremo a Lussemburgo, ma prima quella che vogliamo raccontarvi sono alleanze, fili che si intrecciano in Europa in queste ore, dove gli obiettivi e le richieste sul tappeto sono davvero molteplici. Sentite. L'asse Roma-Varsavia sul clima c'è, ma sarà probabilmente solo temporaneo, perché sul lungo periodo gli interessi delle due capitali sono ben diversi. La Polonia, ad esempio, vuole riaprire il pacchetto per ottenere una revisione della data di riferimento per il taglio delle emissioni. Ora è il 2005. I polacchi vorrebbero fosse il 1990, la data originariamente prevista dal protocollo di Kyoto. Questo perché il crollo del muro di Berlino implicò un collasso dell'economia dei paesi dell'est tale da dare un taglio netto alle emissioni derivate dai vetusti impianti produttivi di stampo sovietico. Così, se ci si basasse sui dati del 1990, per la Polonia non sarebbe difficile raggiungere gli obiettivi. Ma se, come è previsto ora, il riferimento restasse il 2005, per la Polonia le difficoltà non sarebbero poche. Quanto all'Italia, la situazione è esattamente opposta. Negli ultimi anni il nostro paese ha aumentato la quantità di gas serra che produce in maniera esponenziale e quindi tagliare le emissioni rispetto al 2005 sarebbe più facile che tagliarle rispetto al 1990. Se Roma si oppone al pacchetto clima, non è certo per una questione di date, ma di costi di attuazione e di ripartizione dello sforzo di riduzione delle emissioni fra i vari Stati membri. L'alleanza quindi non è che temporanea. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Questo dunque è lo scenario che riguarda in particolare il nostro paese, ma non solo in Europa. E in queste ore che cosa sta accadendo? A seguire i lavori del Consiglio europeo dei ministri dell'ambiente c'è il nostro Enrico Brivio. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, quali sono le novità che emergono di questa, da questa riunione che sappiamo, come spesso accade con le riunioni diplomatiche, insomma, sarà forse lunga e le notizie andranno mano a mano interpretate, Enrico? Sì, in effetti i ministri sono adesso riuniti e quindi non abbiamo ancora delle notizie sugli esiti finali della riunione. Va detto che il ministro Prestigiacomo, entrando, comunque ha confermato la posizione dell'Italia, cioè la richiesta di una clausola di revisione nel 2009 delle stime di costi e benefici del pacchetto clima-energia in discussione, cioè quello che fissa gli obiettivi per il post-Kyoto dal 2013 al 2020, quello che è stato contestato in questi ultimi giorni dal governo italiano in quanto troppo oneroso per le imprese italiane. Il ministro Prestigiacomo ha detto di essere pronta a un confronto sia con il commissario sia con gli altri ministri, ha fatto presente di avere il supporto soprattutto dei paesi dell'est, dei nuovi paesi membri che anche sono interessati a ridurre l'impatto di questo pacchetto sulle aziende, in particolare in questo momento di congiuntura negativa. Comunque l'esito si saprà poi nel pomeriggio. Enrico, sentivamo di alleanze trasversali Italia-Polonia, ma non solo. Si stanno delineando degli scenari in queste ore per ottenere degli obiettivi? Sì, indubbiamente. ovviamente ci sono questi 9 paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, la Polonia che è un po' il capofila di tutto questo gruppo, poi Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria che sono interessati a una revisione del pacchetto, anche se hanno allo stesso tempo degli obiettivi diversi rispetto all'Italia, in quanto vorrebbero cambiare l'anno di riferimento per le emissioni di CO2, in quanto se si prendesse il 2000 potrebbero sfruttare il fatto di aver avuto una crisi economica molto forte nel periodo della ristrutturazione. L'Italia invece vorrebbe degli altri tipi di modifiche, però diciamo che in ogni caso si tratta di un fronte che si unisce nella richiesta di cambiamenti. Poi c'è molto importante vedremo la posizione un po' della Germania, la posizione della Germania, perché da un lato è un paese che ha molto avanti nelle tecnologie sulle energie rinnovabili, e d'altro canto l'industria tedesca, la Confindustria tedesca, ha espresso le stesse preoccupazioni di quella italiana. Grazie a Enrico Brivio e da Confindustria proprio in qualche modo andiamo perlomeno alle imprese italiane. Perché parliamo della giornata della legalità, il presidente degli industriali Emma Marcegaglia, i segretari generali di CGIL, CISL, UIL, Epifani, Bonanni e Angeletti sono riuniti questa mattina allo stesso tavolo. Il tema è proprio quello della legalità nel mezzogiorno, ma naturalmente anche dello sviluppo. Roberto Galullo, che succede? Succede che in questo momento sta parlando il ministro Maroni, ma la notizia importante per dare un po' la sintesi proprio di questa giornata è che il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani ha chiesto un tavolo a Roma solo ed unicamente per la Calabria, sottolineando nell'eccezionalità anche nel panorama del sud. Qui c'è un insieme di criminalità organizzata, malamministrazione, zone grigie conniventi con le 150, ha ricordato il sostituto procuratore nazionale antimafia Alberto Cisterna. E quindi direi che questo passaggio di Epifani dà il senso proprio della giornata, senza dimenticare che De Rose, presidente di Confindustria Calabria, ha sottolineato un'altra cosa vitale, importantissima, vale a dire il credito. In queste condizioni, con una stretta creditizia che qui si fa sentire più che altrove, è impossibile assicurare sviluppo. E cosa vuol dire non avere l'accesso al credito? Beh, in una regione come questa vuol dire una sola cosa: ricorrere agli usurai. E gli usurai non sono nient'altro che la longa manus della criminalità organizzata. Esattamente. Grazie a Roberto Galullo. Torneremo tra l'altro a Catanzaro più avanti proprio con la nostra intervista per tornare su questi temi. Andiamo ora invece a Parma. Ricorderete la vicenda del ragazzo ghanese che a Parma aveva denunciato di essere stato picchiato dai vigili urbani. Sentite cosa è accaduto questa notte. Due bombe carta sono state fatte esplodere la scorsa notte nel parcheggio del comando della Polizia Municipale in via del Taglio a Parma, la stessa sede dove nei giorni scorsi era stato rinchiuso lo studente ghanese Emmanuel Bonsu, il giovane che aveva denunciato alcuni agenti per violenze fisiche e insulti a sfondo razziale. I due ordigni di particolare potenza, scoppiati a breve distanza uno dall'altro intorno alla mezzanotte, sono stati con probabilità lanciati da un'auto in transito e non hanno provocato danni alle persone o alle strutture. Gli autori del gesto sarebbero già stati individuati e alcune persone sono state fermate a Verona, dove attualmente sono in corso degli interrogatori da parte della squadra mobile. Il sindaco del capoluogo emiliano Vignali ha espresso la sua solidarietà ai vigili di Parma. Emilio Buttaro, GR24, Il Sole 24 Ore, Parma. La tecnologia rischia di disumanizzare il paziente. È un nuovo intervento, quello di oggi del Papa, sui temi della vita e della morte in medicina. Le tecnologie avanzate, ha detto Benedetto XVI, possono salvare molte vite, ma nei contesti altamente tecnologizzati dell'odierna società, il paziente rischia in qualche misura, ha detto Benedetto XVI, di essere cosificato. Il Papa è intervenuto parlando ai partecipanti del 110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Il Papa ha anche detto: ogni tentativo di intromissione tra medico e paziente va guardato con sospetto. Torniamo alla cronaca. A Perugia, nuova udienza al processo per la morte di Meredith Kercher. Battaglia tra i legali e il PM. Stop alla fuga di notizie, dicono i legali di Amanda. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 si scatenò in Germania, allora governata dai nazisti, una violenta ondata di violenze anti-ebraiche. Furono distrutte migliaia di vetrine di negozi, date alle fiamme una sessantina di sinagoghe e uccisi centinaia di ebrei. Questo episodio, come molti sanno, tutti dovrebbero sapere, venne ricordato come la notte dei cristalli. I resti di quella notte sono in una discarica grande, quattro campi di calcio, ma di cui si sono perse le tracce, o almeno si erano perse fino a ieri. I resti della notte dei cristalli sono stati rinvenuti dopo 70 anni da un giornalista israeliano, cacciatore di tesori, che ha svelato ieri la sua scoperta e oggi indicherà alle autorità tedesche come rintracciare il sito. E in Italia arrivano invece altri inediti, una serie di registrazioni mai andate in onda delle trasmissioni in lingua italiana di Radio Londra. Sono state concesse in esclusiva dalla BBC al Festival della Creatività di Firenze, che ricordiamo è in programma dal 23 al 26 ottobre e che ha fornito un'anticipazione proprio a noi di Radio 24. La voce più famosa di Radio Londra era quella del colonnello Stevens, il colonnello Buonasera, che ogni sera appunto parlava agli italiani con il suo tono pacato e l'accento anglo-napoletano. La sua popolarità fu enorme. Viva il colonnello Stevens! Videro scritto a lettere giganti sul dorso di una collina le truppe alleate al loro sbarco in Sicilia. A comandarle il generale britannico Alexander, protagonista ora di una delle nuove registrazioni inedite di Radio Londra in lingua italiana. È il 12 giugno 1944 e il generale si rivolge ai partigiani italiani che aspettavano dalla radio inglese parole d'ordine per operazioni militari da effettuare oltre le linee nemiche. Patriot, le armate tedesche sono costrette a ritirarsi su tutti i fronti italiani, compreso quello della zona costiera adriatica. Blocchi stradali di ogni genere attendono i tedeschi fra le montagne. I mezzi di trasporto si ammucchieranno nei passaggi obbligati. Ecco dove voi potete colpirli duramente e vittoriosamente. Ostruite i passi, bloccate le strade, ritardate la ritirata del nemico in modo che esso possa essere raggiunto dalle forze aeree alleate. Maria Luisa Pezzali, GR 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 16 minuti GR Extra Large con le notizie di oggi. Sul clima, faccia a faccia tra il ministro italiano all'ambiente Prestigiacomo e il commissario europeo Dimas. Chiediamo una clausola di revisione, sicuri delle nostre cifre, dice la Prestigiacomo. Avvio brillante per le borse in Europa e Asia, il prezzo del petrolio risale a $74 al barile, mentre sono buone notizie scende ancora il tasso Euribor per la settima seduta di fila. Quello a tre mesi ai minimi da inizio settembre, tocca la soglia chiave del 5%. Il Papa ai medici: rispettare i malati inguaribili, e poi avverte: la tecnologia rischia di disumanizzare il paziente. Nuova settimana di protesta nel mondo della scuola e dell'università, manifestazioni da Palermo a Trieste per fermare i progetti del ministro Gelmini, a Roma contro i tagli, lezione dei professori in piazza Montecitorio. Abbiamo parlato poco fa del convegno in corso a Catanzaro sullo sviluppo economico e la legalità nel Mezzogiorno, a cui partecipano il ministro dell'Interno Maroni, ma anche il presidente di Confindustria, i segretari di CGIL, CISL e UIL. Ne parliamo però adesso con un imprenditore calabrese per raccontarvi la sua storia. Un imprenditore che da anni ha deciso di reagire alla criminalità denunciando i tentativi di estorsione e subendo anche alcune minacce. Si chiama Antonino De Masi, buongiorno. Buongiorno a lei. De Masi, è possibile conciliare legalità e impresa? È possibile, al sud non è solo possibile, ma diventa esistenziale, o è meglio, è l'unico elemento che può far guardare avanti a un domani, perché altrimenti qui è una situazione che si involverà e porterà alla distruzione del sistema economico. Qual è la sua storia? Insomma, raccontarla può essere utile per così spingere anche altre persone a esporsi sul fronte della legalità, altri imprenditori a fare la loro parte. Guardi, la mia è una storia semplice, di una famiglia che da 55 anni fa impresa in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, che ha circa 300 dipendenti e che si è sempre messa di traverso di fronte alle richieste estorsive della criminalità dell'Ndrangheta. Non da oggi, ma da oltre 25 anni noi siamo in prima linea, in un territorio complicato, difficile. Oggi siamo vivi, non siamo morti di mafia. Rischiamo però di morire di legalità, perché in un sistema in cui lei punta nella legalità come elemento e speranza di crescita, per sé, per la sua famiglia, per le sue aziende, la mancanza di legalità la porterà, rischia di farla morire, perché in un sistema dove la competizione non è una competizione basata su regole di legalità e di civiltà, ma su regole dove l'antistato va avanti, a questo punto uno diventa penalizzato nel vivere la legalità. Non si può lavorare se si è sponsorizzati dalla mafia e non lavorare se si è persone per bene. Quanto si è lontani in Calabria da realizzare questa condizione, cioè da mettere le imprese nella condizione di lavorare con margini di economia senza doversi in qualche modo alleare alla criminalità, che spesso consente margini migliori addirittura? Guardi, che essere vicini all'antistato sia un fatto, tra virgolette, economico dal punto di vista egoistico, è facile dirlo, perché a volte anche la verità. Però guardi, stare a fianco dell'antistato e della mafia non è un fatto economico, ma un fatto di mancanza di libertà, che è un elemento principale, va al di là di pagare 100-200 mila euro di tangenti all'anno. Uno che fa accordi con l'antistato è privo di dignità, è privo di libertà, quindi le manca quello che è l'elemento principale nell'essere un uomo libero. Per cui io credo, per rispondere alla sua domanda, che la Calabria, il futuro della Calabria dipende da noi. E siamo molto lontani, molto lontani da tutto ciò, da raggiungere il risultato, però oggi Confindustria in modo particolare, la classe imprenditoriale, in cui devono fare una rivoluzione, deve partire da loro, deve la classe imprenditoriale pretendere legalità e dare la legalità e dare allo Stato quel contributo che serve perché venga ritrovata la legalità. De Masi, lei è stato direttamente minacciato? La mia famiglia ha un curriculum enorme, guardi, di questo, di estorsioni, minacce di tutti i generi, per cui ho una lista piena di attentati, estorsioni e aggressioni varie, sì. Come ha preso le parole di Roberto Saviano, che dice io me ne voglio andare dall'Italia? Sa, se non fossimo in diretta alla radio le direi quello che penso, ma siccome dobbiamo dare ottimismo a tutti, diciamo che a lui gli è venuto un attimo di scoraggiamento e quindi è come tutti i meridionali, è quel desiderio spesso di dire questo per cercare di creare una reazione, una provocazione. E io le sto dando una risposta radiofonica, non le sto dicendo quello che penso. Lei ci ha mai pensato di lasciare tutto? Guardi, il mio sogno è andare via, scappare il più possibile, perché sono stanco di creare dei figli in un territorio come questo. Ecco, lei mi ha tirato una risposta a caldo, sono in un convegno di Confindustria a Catanzaro con il GOTA della Marcegaglia, il GOTA del Ministero degli Interni e i segretari nazionali dei sindacati, per cui dovrei trasmettere ottimismo, ma le dico francamente, se non si farà un golpe nel senso una rivoluzione culturale che parte anche da noi, io non credo che ci possa essere un domani migliore per questo territorio. Senta, il Papa nella sua visita a Pompei, un'altra zona, quella della Campania, dove la criminalità purtroppo organizzata è molto presente, non ha voluto citare la Camorra nei suoi discorsi. Fonti vaticane dicono per rispettare in qualche modo la gente onesta, la gente per bene. È stato criticato perché invece, secondo altre persone, avrebbe comunque dovuto parlarne. Lei condivide questo atteggiamento, diciamo così, di prudenza e di non volere enfatizzare il fenomeno della criminalità organizzata per venire incontro alle persone che non hanno nulla a che fare con questo mondo? Oppure è in disaccordo? Guardi, le posso dire una cosa, che qui la filosofia in questo momento non regge. I fatti, i morti, le aggressioni, non c'è giorno in cui il sistema paese non subisce delle angherie da parte dell'antistato, per cui andare a fare ragionamenti di filosofia, di principi, non regge. Oggi vanno chiamati per nome coloro i quali quel nome ce l'hanno. Criminali sono totali questi mafiosi, questi imprenditisti, e criminali vanno chiamati da tutte le persone che hanno titolo per farlo. Io credo che la Chiesa deve anche assumersi la responsabilità di dire quello che ha detto Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, la scomunica. Lei ha più paura della situazione ambientale, chiamiamola così, in Calabria, o della crisi economica? No, guardi, la crisi economica è un elemento che si aggiunge a una crisi di legalità. I due elementi insieme sono un miscuglio esplosivo, perché non si dimentichi che l'illegalità, la mafia, ammazza le aziende, come le ammazza la crisi economica, ci aggiunge degli elementi insieme al limite, lei porta tutto alla morte, poi distruggerà tutto. Grazie allora Antonino De Masi per essere stato con noi, imprenditore calabrese impegnato sul fronte della legalità. Buona giornata, grazie. Grazie, buongiorno, grazie. E c'è un'ultima ora mentre intervistavamo Antonino De Masi che arriva dall'Afghanistan, perché c'è stata un'esplosione innescata da un attentatore suicida che ha colpito dei militari tedeschi della forza di assistenza alla sicurezza della NATO in Afghanistan. Secondo quello che riferiscono proprio le fonti della NATO, ci sarebbero delle vittime in questa esplosione, ricordiamo, in Afghanistan. Naturalmente vi daremo aggiornamenti se ce ne saranno. Intanto però andiamo avanti col giornale. Parlavamo di Saviano nell'intervista con l'imprenditore De Masi, e a proposito proprio dell'autore di Gomorra, sotto scorta da 2 anni e minacciato di morte dal clan dei Casalesi, c'è un'iniziativa che arriva invece dai premi Nobel, che dicono la sua libertà è un problema di democrazia e riguarda tutti. Ed è proprio quello che i Nobel, tra i quali Dario Fo, Günter Grass, Orhan Pamuk, Mikhail Gorbachev, l'arcivescovo Desmond Tutu e Rita Levi Montalcini, scrivono in un appello. Appello che Dario Fo ci spiega al microfono di Adriana Fracchia. Bisogna proprio che ci sia un'attenzione che in verità, partiamoci chiaro, insomma, sul piano dell'informazione di Stato soprattutto non c'è stata come meritava, insomma. Io ho subito aderito proprio per questo, perché non può essere soltanto qualcosa che rimane nell'ambito della difesa e dell'attenzione da parte del governo o dello Stato. Bisogna coinvolgere tutti i cittadini, renderli cosciente di questa cosa. Nell'appello si legge: è un problema di democrazia, la libertà nella sicurezza di Saviano riguarda noi tutti come cittadini. Certo, sono ben convinto di questa asserzione. Il guaio terribile di Napoli e della campagna è proprio questo tirare a campare, questo non partecipare, non prendersi carico di quello che succede nella propria terra. Pensiamo ai nostri fatti, ecco perché è importante questo richiamo. Fatti carico di questo. L'importante soprattutto serve a coinvolgere anche i cittadini. I cittadini devono sottoscrivere questo, ma non tanto per farci una firma, anche per far capire che non è una persona isolata, ma è una persona che ha l'appoggio, il sostegno e la partecipazione totale, insomma. Si parla molto di crisi economica, però l'arte italiana del XX secolo non conosce crisi, almeno per chi frequenta le aste di Christie's a Londra. I tagli di Fontana, le nature morte di Morandi, dipinti di Boccioni, Modigliani, De Chirico, insieme a Pennone e Merz e tutti i maggiori esponenti dell'arte povera. Siamo da Christie's, su King Street a Londra, dove stasera si batte la 7ª edizione dell'Italian Sale. All'asta la nostra arte del XX secolo, prestigiosa e sempre più apprezzata, come spiega la curatrice dell'Italian Sale, Mariolina Bassetti. Ormai l'Italian Sale è un appuntamento che continuiamo ad avere per l'8º anno consecutivo, che ha reso l'arte italiana particolarmente conosciuta in tutto il mondo. Nell'edizione del 2000 l'Italian Sale ha realizzato 5 milioni di sterline, nel 2007 14 milioni di sterline, quindi c'è stato un grande aumento. E se proprio mentre crollava Lehman Brothers, lo squalo in formalina di Damien Hirst, battuto per 10 milioni di sterline, faceva tremare il martello di Sotheby's, da Christie's previsto il record per un nostro pezzo d'eccezione. In questa edizione particolarmente prestigiosa abbiamo un'opera importantissima, forse la più importante di Pascal, il ponte, un'installazione di 8 metri. Quanto ci si può aspettare? Ci aspettiamo intorno al 1,5 milioni di sterline. In un momento così particolare della finanza internazionale, credo che l'arte confermerà il successo che ha avuto negli ultimi anni. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E ci sono, ahimè, aggiornamenti che arrivano dall'Afghanistan. La notizia ve l'abbiamo detta poco fa: un attacco al contingente tedesco nel paese. Ci sarebbero almeno 5 bambini morti nell'esplosione che ha colpito una colonna di mezzi militari tedeschi. Vi daremo altri aggiornamenti se ci saranno. 13:34, GR Extra Large con le notizie di oggi. Sul clima, faccia a faccia tra il ministro italiano all'ambiente Prestigiacomo e il commissario europeo Dimas. Chiediamo una clausola di revisione, sicuri delle nostre cifre, dice la Prestigiacomo. Attentato contro le truppe tedesche in Afghanistan, uccisi 2 soldati e ci sono anche 5 bambini morti. Il Papa ai medici, rispettare i malati inguaribili, e poi avverte, la tecnologia rischia di disumanizzare i pazienti. Saviano e gli altri simboli, me ne andrei anch'io, devo dare ottimismo, un imprenditore minacciato dall''ndrangheta racconta così la sua storia nel giorno della legalità per le imprese a Catanzaro. Nella notte bombe carta a Parma contro la caserma dove un ragazzo ghanese raccontò «Mi hanno picchiato». Comincia una nuova settimana di protesta nel mondo della scuola e dell'università. Manifestazioni a Palermo, da Palermo a Trieste, a Roma contro i tagli, lezione dei professori in piazza Montecitorio. Come avete sentito poco fa, giornata positiva per le borse in Europa e anche in Asia questa mattina. Il prezzo del petrolio è risalito a $74 al barile, mentre, e come abbiamo già detto anche nei nostri titoli, sono buone notizie la discesa del tasso Euribor per la 7ª seduta di fila. Quello a 3 mesi in particolare è ai minimi da inizio settembre, tocca la soglia chiave del 5%. Intanto il rischio di scarsa liquidità da parte delle banche è stato arginato, come sappiamo, dai massicci interventi dei vari governi nazionali negli Stati Uniti come in Europa. Ma il credito alle imprese funziona ancora? Sentiamo Valeria De Rosa. In questo vortice, molto simile al gioco del domino, tutto crolla. Perdite azionarie e obbligazionarie da capogiro. In tanti parlano di ammanchi virtuali, ma da qualche parte qualcuno paga un conto che virtuale non è. Hanno cominciato i privati intestatari di mutui a tasso variabile, sui quali si è scaricato l'Euribor, schizzato oltre 5 punti percentuali perché le banche tra loro non si fidano e non si prestano soldi. E allora sul mercato circola meno denaro e quello che circola costa di più. L'anello debole ora sono le imprese. Ad agosto, dati Banca Italia, lo stock di debiti contratti con istituti di credito non era diminuito, ma gli interessi pagati sfioravano il 7%. 2 anni prima erano al 4,5%. Non è una differenza da poco se consideriamo che lo scorso anno l'intero ammontare dei debiti finanziari delle imprese italiane è arrivato a 1.100 miliardi. La situazione sta degenerando velocemente, come spiegano le associazioni di categoria. Segnalazioni per il momento ci arrivano un po' a macchia di leopardo. Riguardano sia l'aspetto, diciamo, del razionamento, ma soprattutto un inasprimento degli spread richiesti dalle banche in sede di rinnovo dei fidi. In un momento in cui c'è bisogno di sostenere la gestione corrente, ossia il ciclo acquisti, magazzino vendite, soprattutto nel settore commerciale, ci troviamo un incremento degli oneri finanziari che si sta, direi, in modo abbastanza omogeneo diffondendo. Il rischio è che se, come auspichiamo, avremo un miglioramento dell'Euribor a seguito, diciamo, di migliori condizioni sul mercato interbancario, il rischio è che questo beneficio sia più che compensato in senso negativo dall'incremento degli spread. Il signore che avete sentito è Ernesto Ghidinelli, responsabile del settore credito della Confcommercio. La sua fotografia è preoccupante, ma ancora non drammatica. Più cupo il resoconto di Luciano Consolati, responsabile del settore credito della Confartigianato. Dalla verifica che abbiamo fatto con le aziende, che per adesso sono suggestioni perché non abbiamo dati statistici, però sono abbastanza ricorrenti, senza dubbio c'è stato un irrigidimento del credito, la richiesta massiccia di ritiro dei fidi, quindi senza dubbio per alcune aziende che sono non particolarmente attrezzate dal punto di vista dell'autofinanziamento, questo è un problema pesantissimo. Avete anche dei casi specifici da riportare di aziende proprio in grave difficoltà? Guardi, un'azienda anche strutturata che di fronte ad alcune situazioni di relativa criticità per un'azienda esportatrice nel rapporto euro-dollaro si è trovata nello stesso tempo, nel momento in cui avrebbe avuto bisogno della vicinanza della banca per questo problema sul cambio, a una richiesta di rientro dei fidi, a una richiesta di chiusura dei conti e addirittura la richiesta di restituzione delle carte di credito. Umiliante per un imprenditore che da 50 anni non ha mai mandato indietro una riva. La scorsa settimana Confindustria e ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, si sono incontrate per affrontare il problema della scarsa liquidità. A domanda diretta, se gli associati stanno lamentando un aumento degli spread applicati dalle banche sui finanziamenti che corrispondono al guadagno delle banche, Emma Marcegaglia ha risposto così. Sì, noi abbiamo anche in previsione di questo incontro fatto un sondaggio abbastanza ampio sulla nostra base, quindi non sono dati, come dire, statistici aggregati precisi, però danno un senso della situazione E sì, devo dire che alcuni nostri associati rilevano e evidenziano alcuni aumenti di spread. In alcuni casi, poi dipende dalle aree del paese, dipende dai settori, dipende da tante cose, però questo tema dell'aumento degli spread c'è. Questa è la precisazione di Corrado Faissola, presidente dell'ABI. Dal punto di vista fondamentale del credito abbiamo avuto una convergenza piena, che la dinamica della crescita degli impieghi non si è assolutamente fermata. Circa il problema dei prezzi, non c'è stata una politica da parte delle banche di rialzo sistematico dei tassi, se non per riportare i tassi medesimi a livelli di competitività. E questo dunque Valeria De Rosa nel suo approfondimento sulla crisi di liquidità per le imprese. E per combattere la crisi in Giappone sta prendendo piede una forma di concorrenza mozzafiato. A quanto riferisce la stampa, i principali supermercati e grandi magazzini applicano sconti fino al 50%, sperando naturalmente di attirare i consumatori e ridare così slancio alla spesa. E per ridare slancio alla nostra spesa, oggi in edicola invece con Il Sole 24 Ore il primo libro di una serie dedicata al low cost di qualità. La vignetta di Vincino sul Corriere Economia. Lampedusa, arrivati un centinaio di manager libici, e c'è una barca con a bordo un sacco di gente in camicia e cravatta. Uno che scende davanti a un poliziotto e dice: Unicredit, Piazza Cordusio. Eh già, perché un altro aspetto della crisi di liquidità è quello dell'arrivo dei cosiddetti fondi sovrani. La strategia del governo in questo senso, per ridare fiducia, è partita nel fine settimana dagli Emirati Arabi. Obiettivo: attrarre capitali, evitando però interventi forti che possano accaparrarsi società chiave. L'Italia, sintetizza oggi il ministro degli esteri Franco Frattini, ha fiducia nei fondi che operano in modo trasparente, che puntano un investimento e non al controllo delle imprese e quindi tendenzialmente si mantengano al di sotto del 5%. Questo al termine proprio di un fine settimana di discussioni ad Abu Dhabi. E proprio da Abu Dhabi arriva oggi un nuovo investitore. Sì, arriva una notizia: Finmeccanica e Mubadala Development Company, una società di investimento e sviluppo commerciale con sede proprio ad Abu Dhabi, hanno firmato un accordo di partnership industriale nel settore dell'alta tecnologia. Il presidente di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini, ha commentato così il possibile ingresso del fondo di Abu Dhabi nell'azionariato di Finmeccanica. Abu Dhabi, insomma, Mubadala, che io conosco da molto tempo, non ci ha chiesto di entrare. Con Mubadala abbiamo fatto un accordo per quanto riguarda la nostra presenza presso l'industria di Abu Dhabi, dove del resto siamo già presenti perché Serie Sistemi Integrati ha una partecipazione, per trasferimenti di tecnologie nel campo aeronautico che noi abbiamo e che quindi siamo ben felici per aumentare la nostra presenza in quel mercato del Medio Oriente, che sicuramente è significativo per noi. Invece sull'ingresso di un fondo in Finmeccanica? Come ho detto prima, non ci ha chiesto, se ce lo chiedesse noi esamineremmo l'opportunità. Okay, without further ado, I present Governor Sarah Palin. Sabato sera al Saturday Night Live, Sarah Palin, la candidata repubblicana alla vicepresidenza, si è trovata di fronte alla sua imitatrice Tina Fey, divenuta ormai una sorta di clone della governatrice dell'Alaska. Ad aprire il popolare programma televisivo dell'NBC una finta conferenza stampa in cui Tina Fey Palin ha cominciato a imperversare con una serie di battute del tipo "non vedo l'ora di rispondere a parte delle vostre domande", alludendo all'abitudine della Palin proprio di evitare le domande e rispondere invece con argomenti già preparati, e quindi ecco l'incontro. La vera Palin ha incontrato l'attore Alec Baldwin, che ha finto però di trovarsi di fronte a Tina Fey ed ha ripetutamente insultato la governatrice. Il video integrale, per chi è interessato a vedere anche le immagini, lo trovate sul sito radio24.it. Il sonoro l'avete sentito, il video è davvero spassoso, ma anche in Italia dilaga la satira della Palin. La sua imitatrice è qui da noi, Paola Cortellesi. Vi prometto che in caso di vittoria ritireremo le nostre truppe all'estero e le useremo per invadere Rai 3. Non stiamo mica a pettinare le bambole. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Andiamo sui giornali stranieri con te, naturalmente. Dove ci porti oggi? Ma forse forse l'apertura che mi ha colpito di più è quella di El País, è uno dei pochissimi, forse l'unico quotidiano europeo che apre con questa enfasi sul risvolto olandese della crisi economica mondiale, e nel particolare il titolo è: l'Olanda inietta 10.000 milioni per assicurare un futuro a ING, sappiamo il colosso, il famoso colosso della zucca, e che ha le difficoltà che hanno tutti i gruppi bancari europei, e quindi anche il governo olandese ha deciso di iniettare di dare questo aiuto statale. C'è poi un approfondimento di 7 pagine sulla crisi economica, che a quel punto spazia come deve essere, tra non soltanto alla risvolto olandese, ma naturalmente al vertice che si terrà, in che Sarkozy ha un po', questo è il termine e anche alle cose pratiche, Giulia, perché esatto. Io ti chiedo di fare un altro passo, andare invece in Gran Bretagna, dove la crisi ha un effetto molto più tangibile per le famiglie. Sì, Peter Mandelson, direi con grande coraggio, perché è appena rientrato nel governo britannico, era commissario del commercio estero europeo, è stato richiamato da Brown e con grande coraggio, devo dire, ha annunciato questa misura molto forte, che è quella di fermare le riforme sulle riduzioni, sulla flessibilità degli orari di lavoro, che avrebbero favorito i padri e le madri che lavorano, perché ha detto Mandelson, capite bene, che non è questo il momento per mettere in ulteriore difficoltà le aziende che già ne hanno molte, quindi sul fronte del lavoro devono stare tranquille, e non credo che sarà molto popolare questa decisione, però è la tipica decisione di un uomo forte, di un governo che vuole dare dei segnali forti in un momento difficile. 13:48 minuti, le notizie di oggi. Attentato contro le truppe tedesche in Afghanistan, uccisi 2 soldati e ci sono anche 5 bambini morti. Sul clima, faccia a faccia tra il ministro italiano all'ambiente Prestigiacomo e il commissario europeo Dimas. Chiediamo una clausola di revisione, sicuri delle nostre cifre, dice il ministro italiano. Il Papa ai medici: rispettare i malati inguaribili, e poi avverte: la tecnologia rischia di disumanizzare i pazienti. Stranieri a scuola, in Germania siamo noi italiani nelle classi separate. E tra poco parleremo proprio di scuola e di classi separate per stranieri. Prima però cominciamo parlando del mondo dell'istruzione più in generale e dell'università, perché da Palermo a Trieste ci sono manifestazioni negli atenei, negli istituti superiori, contro i tagli proprio alle università previsti tra l'altro dalla riforma Gelmini. E sapete che succede a Roma? A Roma gli studenti hanno fatto lezione in piazza Montecitorio. Noi vi raccontiamo com'è andata. Queste qui che cosa descrivono? Come sono fatte queste equazioni? Descrivono il comportamento del campo elettrico e magnetico. E B, generato da una distribuzione di carica e da una corrente. Ore 11, lezione di meccanica quantistica relativistica. Comincia così, con tanto di lavagne e gessetti, a Roma, la protesta di studenti e docenti della facoltà di fisica dell'Università La Sapienza. Una lezione in piazza davanti alla Camera dei Deputati per dire no ai tagli all'istruzione decisi dal governo. Questa manifestazione, ma è molto semplice. Sarà approvata una finanziaria che, applicata nell'ambito di 5 anni, porta al fatto che l'università si svuota e vengono tagliati i fondi. E si prospetta un'università sempre più verso un modello di tipo privatistico, le assunzioni sono praticamente bloccate. Ci sono stati tagli appunto sia da parte della destra sia da parte della sinistra, quindi questo tipo di protesta sicuramente non è una protesta di tipo politico. È un problema che riguarda tutti, sia i docenti, perché comunque è un problema che riguarda l'istruzione, sia noi studenti, perché un giorno qualcuno di noi vorrà fare ricercatore, ma a queste condizioni in Italia non si può fare. Cosa c'è scritto su questo cartello? Adotta uno studente italiano, con una bella raffigurazione di un cervello con le gambe e una valigia che scappa. In inglese è rivolta direttamente all'estero questa richiesta? Giusto lì, appunto, è per quello che è stato fatto, perché l'unica speranza è andare all'estero ormai. Uno studente italiano che si approccia al dottorato guadagna un quarto di quello che guadagna un dottorando all'estero. Un quarto. E noi non valiamo come paese un quarto rispetto a un paese estero. Le lezioni in piazza della facoltà di fisica andranno avanti per tutta la settimana a Montecitorio, ma anche a Piazza Navone e al Campidoglio, fanno sapere i promotori dell'iniziativa, che ha anche raccolto molte adesioni fra i docenti. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Taglia parte, l'altro tema per il futuro della scuola italiana riguarda l'inserimento degli studenti stranieri. Classi ponte, come proposto dalla Lega, o corsi aggiuntivi di lingua italiana, come dice il ministro Gelmini. Fatto sta che la questione c'è. Come inserire nelle scuole i bambini che parlano poco e male la nostra lingua? E su questo la satira, la vignetta di Maramotti sull'Unità, c'è un bianco che si rivolge a un nero e gli dice: non conosci l'italiano e la Costituzione? E lui gli risponde: mi hanno messo in una classe di padani. Scherzi e battute a parte, ecco cosa accade in Germania, dove gli stranieri siamo noi italiani. Sondern significa separare. Ecco il principio che sta alla base delle Sonderschule, le scuole separate nate in Germania negli anni 50 e 60 per gli alunni disabili. Poi, accanto a ciechi, sordi e disabili motori, è comparsa la categoria dei ragazzi con difficoltà di apprendimento, in cui sono stati inseriti anche gli immigrati. Il professor Michael Bommes dirige l'Istituto di Studi Interculturali sull'Immigrazione dell'Università di Osnabrück. Quando gli immigrati hanno cominciato a venire in Germania, negli anni 70 e 80, proprio le scuole elementari hanno iniziato a risolvere semplicemente i loro problemi mandandoli tutti nelle Sonderschule. Quindi le scuole elementari non erano preparate ad affrontare la questione in altro modo e pensarono bene di dichiarare semplicemente che avevano difficoltà di apprendimento. Oggi gli insegnanti sottopongono i ragazzi in difficoltà a dei test e se non li passano li spostano nelle Sonderschule. Un percorso parallelo alle classi normali con programmi ridotti, il cui diploma equivale a quello di una scuola professionale. In teoria il passaggio alle scuole normali è possibile, ma raramente avviene. Altrettanto raro è l'ingresso all'università di un ragazzo proveniente da una Sonderschule. Ma chi sono gli studenti che frequentano le Sonderschule? Secondo il settimanale tedesco Die Zeit, il gruppo più rappresentato è quello degli italiani, con una percentuale dell'8,6%. A seguire i bambini e i ragazzi turchi con il 6,6%, poi i greci con il 5,9%. Ancora Bommes. Il fatto di essere andati alle Sonderschule rimane un marchio. 13.53, lunedì, è il momento del nostro Dizio Radio, parliamo di Corte Costituzionale. Questa settimana, la settimana appena trascorsa, è stata una settimana piuttosto calda per molti argomenti, ma per esempio in particolare per quanto riguarda in modo specifico l'Italia, per l'elezione del giudice della Corte Costituzionale, no? Che si è cominciato a votare da giovedì. Allora cerchiamo di capire l'importanza della Corte Costituzionale, che cos'è, cosa serve, quali sono le sue competenze, come si elegge il giudice presidente della Corte Costituzionale, che poi tra l'altro, Giuseppe Busia, a lui mi rivolgo, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 ore, si può anche chiamare alta corte, se non sbaglio consulta, insomma ci sono vari sinonimi, no? Sì, diciamo il nome che sta scritto nella Costituzione è Corte Costituzionale, certo. Poi giornalisticamente si parla anche di consulta perché sta nel palazzo della vecchia consulta. Comunque ecco, la Corte Costituzionale è nel nostro ordinamento il giudice delle leggi, quindi noi abbiamo una Costituzione che tecnicamente si chiama rigida. È la nostra legge fondante, ecco, è insomma, la no? nostra legge fondante e le altre leggi, le leggi ordinarie, normali devono rispettarle, allora ci vuole un giudice che controlli che queste leggi rispettino la Costituzione ed è proprio il lavoro che fanno i giudici costituzionali, fanno anche, dirimono quando i poteri dello Stato litigano fra loro, diciamo, cioè ci sono dei conflitti su a chi spetta fare una cosa o l'altra, allora interviene comunque la Corte e quindi è il giudice dei giudici, il giudice supremo e il giudice dei poteri, oltre che avere altri poteri quali decidere sull'ammissibilità ad esempio dei referendum abrogativi. È composta da 15 giudici che vengono eletti da diversi organi, 5 sono eletti dal Parlamento come quello che riguarda appunto le vicende di questi giorni, 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica e 5 invece sono scelti dagli stessi giudici, dai giudici della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che eleggono alcuni componenti, quindi un terzo. Proprio perché ci sia pluralismo, no? Perché quindi ci sia pluralismo e per esempio però ecco la componente politica in qualche modo c'è perché il Parlamento che la sceglie, ma è necessario, e di qui i tempi lunghi, che il Parlamento voti con una maggioranza qualificata, 2/3 all'inizio e poi 3/5 dal quarto scrutinio. Esistono poi dei requisiti per i singoli giudici che devono essere o magistrati delle supreme magistrature o ordinario amministrativo, oppure avvocati da più di 20 anni, oppure professori ordinari di materie giuridiche. Quindi devono avere determinate caratteristiche per svolgere questo mestiere e hanno una serie di garanzie che ne garantiscano l'indipendenza. E a capo della Corte Costituzionale? Viene eletto un presidente per 3 anni all'interno della Corte e rieleggibile ma solo all'interno di questo mandato, perché si dura 9 anni e poi si va a casa, comunque senza speranze di proroghe. Beh, insomma, in qualche caso è necessario e giusto. Quindi qui chiudo, ringrazio per averci parlato della Corte Costituzionale Giuseppe Busia. Roberta Giordano vi dà appuntamento col Dizio Radio al prossimo lunedì. Attentato contro le truppe tedesche in Afghanistan, uccisi 2 soldati e ci sono anche 5 bambini morti. Battaglia annunciata in Europa, l'Italia va avanti sul clima e chiede un patto di revisione alleata con i paesi dell'est. Il Papa ai medici, rispettare i malati inguaribili, e poi avverte, la tecnologia rischia di disumanizzare i pazienti. Chiesto un maxi risarcimento per l'uccisione di Meredith a Perugia, i familiari chiedono 25 milioni di euro di danni. Lo sbarco dei fondi sovrani arriva da Abu Dhabi, il partner di Finmeccanica. Frattini, tutti benvenuti se restano sotto il 5%. Proteste contro i tagli all'università, Montecitorio, lezione in piazza. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè, in studio Alessio Maurizio e Anna Migliorati. Che vi danno appuntamento come sempre a domani a partire dalle 13, extralarge@radio24.it se volete scriverci. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.